Letture di Radio 24. Il 7 novembre 1921, davanti alla corte d'assise di Seine-et-Oise, si apre il processo a Henri Landru, accusato di aver sedotto e ucciso 10 donne, allo scopo di impadronirsi dei loro averi. Il giorno successivo, la controversa scrittrice Colette interviene, con uno scritto rimasto finora inedito in Italia, per opporsi a quella che considera soltanto una condanna preventiva. È lui che attira e trattiene tutti gli sguardi. Lui, 100 volte fotografato, caricaturato, riconosciuto da tutti, sebbene sia differente da ciò che si conosce di lui. Ecco la barba e la calvizie che lo hanno reso popolare. Il sopracciglio increspato, come fosse posticcio. Ma quest'uomo magro porta sul viso qualcosa di indefinibile che ci rende circospetti, o un po' di più, direi, deferenti. Perché dovrei abbandonare il tono amichevole parlando di lui? Quest'uomo è il ritratto della cortesia e non ho per nulla voglia di entrare in sintonia con un processo che in 4 ore esatte ha già riversato in un capo d'accusa le qualifiche meno ambigue. Assassino, misogino tagliatore di teste, mendace sposo. Tutto questo prima delle prove? A che vocabolario ricorrere se sarà fatta luce e la poligamia sarà condannata per infamarlo meglio e di più? Un tale riassunto, sì, oso definirlo così, esaurisce tutte le risorse di un linguaggio ingiurioso. Tuttavia Landru, né impudente né umile, guarda la folla senza insistenza, saluta i giudici prima e dopo aver parlato, usa delle parole e dei gesti contenuti, e noi acquisiamo poco a poco l'impressione, rafforzata dalle minacce avvelenate del sostituto procuratore generale, dalle declamazioni della parte civile, dai ghigni irrispettosi della difesa e dal mormorio spinto del pubblico, la scandalosa impressione che una sola persona all'udienza si preoccupi delle apparenze e sappia trattenersi. L'uomo sul banco degli imputati. Quando è la società a punire, essa manca di eleganza e di decenza. Il giorno dell'esecuzione, attorno alla ghigliottina, le risate, il vino rosso, la frenesia dei monomaniaci e dei curiosi infangano una piazza al centro della quale un uomo, pallido, avanza senza esitazione e quasi sempre muore dignitosamente. La grandezza che manca ai nostri giudici e ai nostri supplizi diventa facile da sfoggiare per un condannato nel suo momento. Un po' di contegno, una pazienza altera, qualche pizzico di cortesia ostinata. Ed eccolo sul punto di passare per simpatico a confronto. Una donna senza cappello dietro di me bisbiglia. Ha veramente l'aria di un signore. Che elogio! Una giornalista afferma che Landru ha una barba da speziale. Un disegnatore invece dice: è così composto che potrei prenderlo per un responsabile di reparto. La folla non emetterà mai un giudizio unanime su Landru. È l'uomo dai 50 nomi e quello dalle 283 avventure con donne senza sforzarsi. E prima che abbia parlato è già un proteo. Seducente questo seduttore? Certamente corretto. Faunesco e verleiniano, come è stato definito? No, né geniale né difforme. Al di sopra delle vertebre magre del collo, il cranio è bello e può covare l'intelligenza e chi lo sa, l'amore. Per quanto riguarda il viso, cerco invano in quello sguardo profondamente incassato una crudeltà umana, poiché lui non è affatto umano. Quello sguardo da uccello, la particolare lucentezza, la lunga capacità di restare fisso quando Landru guarda dritto davanti a lui. Ma se abbassa a metà le palpebre, lo sguardo assume quella lunghezza e quel disprezzo insondabili che si scorgono nelle bestie in gabbia. Cerco ancora il mostro, sotto i tratti della testa regolare, e non lo trovo. Se questo viso spaventa, è perché ha l'aria ossessiva e normale di imitare perfettamente l'umanità, come quegli immobili manichini che indossano abiti maschili nelle vetrine. Avete ascoltato la lettura di un testo di Colette, finora inedito in Italia, pubblicato sul settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Nel profondo sud, in Sicilia, già nella metà degli anni 90 esistevano tecnologie molto simili all'attuale web 2.0, in grado di condividere informazioni attraverso una rete di computer. Uno strumento prezioso per le testate antimafia che se ne servivano per essere sempre aggiornate sulle ultime novità. A capo di questo meccanismo vi era il Freaknet Media Lab, un laboratorio autogestito che oggi continua il suo lavoro appoggiandosi ad altre realtà, come il Poetry A Club, uno spazio indipendente che utilizza e mette in mostra vecchi hardware destinati alla discarica. Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Neanche 10.000 abitanti in mezzo alla campagna, più un laboratorio per hacker conosciuto in tutto il mondo. Il Poetry Hack Lab, lo spazio libero e autogestito nato come costola diretta del catanese Freaknet Media Lab, ha sede nel profondo entroterra siculo, stretto tra le strade statali e le vie sterrate fiancheggiate da muretti a secco e alberi di limoni. Un computer dotato di due floppy da 8 pollici, un hard disk rimovibile da 10 MB e 256 KB di memoria è, per una persona mediamente normale, un rudere. Per l'Hack Lab è un tesoro. Abbiamo una calcolatrice da tavolo elettromeccanica Olivetti del 1948. Ce n'è un modello uguale in esposizione al MoMA di New York, racconta Gabriele Asbesto Zaverio, 43 anni, che nel 1994, assieme a un paio di amici, ha creato a Catania la sua prima rete indipendente. Lavoravamo all'interno della redazione dei Siciliani. Per il giornale antimafia che Giuseppe Fava ha diretto fino al 5 gennaio 1984, quando gli uomini del clan Santa Paola lo hanno ucciso, Asbesto aveva creato un modo veloce per inviare gli articoli alla redazione. Una serie di computer connessi tra loro che condividevano i contenuti. Certo, non in tempo reale, ma sempre meglio di fax e telefonate. Non siamo stati i primi a far nulla, precisa Asbesto, perché in fondo ci siamo limitati a copiare cose che già esistevano nel resto del mondo e d'Italia. In Sicilia però non c'era niente di simile. A Catania poi l'idea di fare qualcosa che avesse a che fare con l'informatica non sfiorava nessuno. La nostra idea era usare i mezzi telematici per migliorare il prodotto giornalistico. Pensavamo a creare CD-ROM pieni di contenuti, database antimafia, raccoglitori online per denunce anonime. Web 2.0 ante litteram e una Wikileaks de noantri contro Cosa Nostra. Internet come adesso non esisteva ancora, ricorda Riccardo Orioles, uno dei redattori che, dopo la morte di Fava, hanno portato avanti il suo progetto giornalistico. Questo perché I Siciliani era un giornale delocalizzato. Alcune pagine si producevano nel catanese, altre a Roma. Con il sistema messo a punto dall'Hack Lab, scambiarci informazioni era diventato molto più semplice. La collaborazione con un gruppo di hacker per una squadra di giornalisti che si opponeva al potere delle mafie e delle clientele era una scelta politica. Non potevamo permetterci i mezzi tradizionali, così eravamo costretti ad affidarci alla tecnologia, conclude Orioles. Dovevamo essere molto più imprenditori degli imprenditori. Da quegli anni a oggi tante cose sono cambiate. Il Freaknet è nomade e si fa forte di una rete nazionale di hacker, dei quali tutto si può dire tranne che siano dei criminali. Qualcuno lo chiama hacktivism. Per il Freaknet si tratta invece di diffondere la consapevolezza. Dichiaratamente nemici della mafia e antiproibizionisti, gli hacker che ruotano attorno al laboratorio siciliano fanno politica sin dall'inizio, come ricorda Asbesto. A stupire non è tanto l'idea, quanto il fatto che venga da un covo di informatici siciliani, più qualche immigrato, che ha fatto il percorso inverso a quello più comune, dal profondo nord al profondo sud, solo per l'Hack Lab. Alessandro D'Elia è nato ad Asti, ha vissuto in Irlanda, poi a Torino per 2 anni, in Austria per 7, e dal 2007 si è trasferito in Sicilia, con l'unico scopo di lavorare per il Lab. Era il 2000, racconta D'Elia, ed ero convinto che l'informatica vera fosse solo quella della Silicon Valley. Poi ho scoperto Freaknet. Lavorare con l'open source, spiegare alla gente che la diffusione del know-how informatico è un bene comune che migliora la qualità della vita di tutti. È questo, per D'Elia, il compito di informatico, anche ai confini con l'Africa. E i progetti in piedi sono molti. «Stiamo tentando di mettere in piedi il Museo dell'Informatica Funzionante», afferma Asbesto. «Il progetto è arrivato all'attenzione dell'UNESCO. È in via di realizzazione. Abbiamo quasi 2000 pezzi di grande valore, antiquariato informatico, archeologia del computer. La maggior parte siamo andati a cercarla noi, nei cassonetti e nelle discariche, presi dalla strada e rimessi a nuovo. Un vero tesoro, che qualcuno aveva buttato assieme alla spazzatura». In Sicilia, rigorosamente indifferenziata. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luisa Sant'Angelo, Hacker versus Mafia, dal numero 8, dicembre 2011, gennaio 2012, della rivista Italic.